as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e le Rose, Radio Città Fucico 103.1, la trasmissione dedicata al lavoro, ai lavoratori e chi lotta nei luoghi di lavoro. Oggi puntata speciale, ieri c'è stato il 1° maggio, c'è stato il 25 aprile. Prima del 25 aprile a Bologna è successa una cosa molto bella, dal mio punto di vista è unica. Sciopero a Rizzoli, l'ospedale Rizzoli. I lavoratori sono usciti davanti all'ospedale e hanno fatto un presidio con uno sciopero molto riuscito. Noi eravamo lì, chiaramente come delegato sindacale, dirigente sindacale, come inviato del Pane delle Rose. Lì ho potuto intervistare una serie di amici, compagni e lavoratori. Questa puntata non ci sarà della musica perché la vogliamo dedicare interamente alle interviste, perché insomma tantissimi lavoratori hanno chiesto di poter parlare. Siamo riusciti per il tempo che abbiamo a far parlare 4 lavoratori. Se avessimo avuto tempo avremmo fatto parlare tantissimi altri, però insomma il tempo è quello che è. Abbiamo mezz'ora di tempo e dunque oggi sarà dedicata all'intervista prima al funzionario Mario Avazzi, che è una nostra conoscenza, un compagno serio, un funzionario della funzione pubblica, e poi vari lavoratori, in questo caso, e delegati. Sentirete da loro le loro ragioni di questo sciopero. Io vi lascio a queste interviste e poi ci sentiamo per una brevissima conclusione. A dopo. Allora, oggi qua 19 aprile, siamo davanti a Rizzoli. Io non me lo sono mai aspettato, sono 20 anni che sto a Bologna, sciopero a Rizzoli, ma in generale sciopero negli ospedali di Bologna ne ho visti veramente pochi. A Rizzoli mi pare che sia stato il primo sciopero. Abbiamo davanti a noi Mario Avazzi, che è il funzionario della funzione pubblica della CGIL del Rizzoli. Ti chiediamo le ragioni di questo sciopero. Sì, ha ragione, probabilmente è uno dei primi scioperi da oltre sicuramente 30 anni. E questo misura anche la gravità della situazione. Dopo 15 anni di tagli, è noto a tutti che hanno ridotto i finanziamenti alla sanità pubblica di 37 miliardi di euro nel corso di appunto 15 anni. C'è stata una pandemia che, come sappiamo, purtroppo non è ancora conclusa. In un anno e mezzo hanno aumentato i finanziamenti alla sanità, sostanzialmente aumentando i posti letto di terapia intensiva e assumendo nuovo personale con purtroppo condizioni precarie. Finita la pandemia, o meglio, nemmeno è finita la pandemia, e hanno ricominciato a tagliare, hanno ricominciato a porre il blocco delle assunzioni anche in questa regione, che si fa lustro, diciamo, di avere una sanità pubblica una delle migliori. E noi scioperiamo per difendere la sanità pubblica, per difendere l'eccellenza che abbiamo in Emilia Romagna, che ai noi nel corso degli ultimi anni stiamo lentamente, o forse anche molto rapidamente, purtroppo, proprio in alcune condizioni, in alcune situazioni, perdendo. E è uno sciopero in difesa delle condizioni di chi lavora in sanità. Fino a poco tempo fa, ci ricordiamo tutti, gli applausi dai balconi, erano gli angeli della corsia, erano i nostri eroi, adesso sono abbandonati a se stessi. Rinnovo del contratto che ha aumentato molto molto parzialmente le loro retribuzioni, è personale non valorizzato, è personale appunto che è sempre più ridotto, e per di più, diciamo, la direzione di questa azienda sta anche non valorizzando la contrattazione, non rispettando una serie di impegni, come dire, che sono anche risultato di accordi sottoscritti in passato. E quindi, diciamo, le ragioni per questo sciopero sono tante, ed è uno sciopero che sta riuscendo. Adesso il presidio, ci sono diverse decine e decine di lavoratori che dal Rizzoli sono usciti in presidio, ma la cosa più importante è che c'è un'adesione dei lavoratori all'interno dell'ospedale, stanno garantendo i servizi essenziali, ma in tutta una serie di servizi oggi diciamo la sala cinesca è abbassata, come si suol dire. Ti volevo fare una domanda: quali sono le cose che non sta rispettando il Rizzoli? Che... Ma la direzione riorganizza reparti, li riunifica senza un confronto con le organizzazioni sindacali. Di recente le sale operatorie, di recente la sala gessi unificata al pronto soccorso, ma anche una serie di impegni che aveva assunto con noi non li sta applicando. Ormai erano più di due anni che avevamo fatto un regolamento sull'orario di lavoro che garantiva una serie di diritti e quel regolamento non è stato mai deliberato. Aveva assunto l'impegno di investire su un servizio amministrativo che dà risposte al personale, rilevazione presenza assenze, e sono passati da quell'impegno lì 6 mesi e non c'è ancora personale che da 6 unità che era fino a un anno e mezzo fa, ora sono solo 2. Il personale ha problemi nei cedolini, nelle buste paga e non ha risposte. Questo solo per dare degli esempi, diciamo, di quanto in questo contesto persino la direzione di questo istituto diciamo contribuisce a creare disagio tra il personale. Una cosa che mi ha colpito è vedere tutti i volantini che mi dicevano dei delegati, dei lavoratori del Rizzoli attaccati nell'ospedale sullo sciopero, ma in realtà non siete stati voi. Sì, siamo stati colpiti, devo dire positivamente, anche se diciamo abbiamo trovato dei volantini anche in posti non appropriati, ma c'è stato un movimento dal basso, cioè noi abbiamo proclamato lo sciopero, devo dire che questo sciopero l'abbiamo proclamato dopo 3 assemblee che hanno visto una ottima partecipazione, che in sanità appunto non è scontata, e la diffusione delle ragioni dello sciopero, la diffusione dei volantini e quant'altro è sostanzialmente coperta in tutto l'ospedale con lavoratori che hanno preso volantini nella saletta sindacale, li hanno distribuiti e li hanno attaccati ovunque. Questo diciamo ci spiega anche quanto questo sciopero e le ragioni di questa protesta sono sentite. Certamente c'è il problema che questo governo non sta aiutando la sanità, no? Si parla addirittura che dovrebbero mettere 50 miliardi per poter mettere a livello europeo gli ospedali italiani, la sanità italiana a livello europeo, insomma. Questo governo non solo non la sta aiutando la sanità, ma la sta massacrando. In questi anni tutti sappiamo che c'è stato un aumento dell'inflazione, l'aumento del finanziamento alla sanità è inferiore all'aumento dell'inflazione, quindi sostanzialmente ci sono nuovi tagli alla sanità. L'obiettivo di questo governo, devo dire, diciamo, che era un obiettivo che aveva anche il governo Draghi, quindi certo, nessuno è innocente. L'obiettivo è quello di portare i finanziamenti alla sanità pubblica al 6,5%, che secondo l'OMS è un livello di finanziamento che va di molto al di sotto dei livelli minimi per garantire il diritto alla salute. E poi un'altra ultima cosa che ti volevo chiedere: questo può essere un esempio verso quello che dovrebbe fare la CGIL? Il 6 maggio ci sarà la manifestazione qua a Bologna della CGIL insieme alla UILM, unitaria, insieme alla CISL, insomma, che ci sarà una manifestazione. Io so che tu sei molto critico, come sono anch'io, su quello che sta succedendo in Italia, perché noi avremmo voluto qualcosa simile a Rizzoli, no? Assemblee per poi insieme ai lavoratori decidere di scioperare e chiedere qualcosa di importante. Sì, io penso che questo sciopero debba essere l'inizio. La manifestazione del 6 maggio è importante e utile se si va nei posti di lavoro oltre alla sanità a spiegare il disagio che vive la sanità pubblica. Dopodiché, diciamo, quella manifestazione, così come hai detto tu adesso, certamente non risolverà il problema della sanità, che a questo punto non solo va difesa ma va riconquistata, e pensiamo appunto che questo debba e possa essere l'inizio di un processo di mobilitazione vera in tutti i luoghi di lavoro della sanità, ma soprattutto in tutti i luoghi di lavoro del paese, per riconquistare la sanità pubblica, perché è un diritto e deve essere un diritto non solo dei lavoratori della sanità, ma un diritto di tutti. Grazie Mario. Allora, siamo qui con una ricercatrice del Rizzoli, diamo voce un attimo anche ai lavoratori, abbiamo prima parlato col tuo funzionario della CGIL, Mario Iavazzi. Abbiamo una ricercatrice, sono rimasto incuriosito da un cartello, ecco perché voglio farti questa intervista, poi puoi parlare di tutto, ma ho visto un cartello in cui diceva, insomma, che cos'è questo 5 più 5? Allora, ciao, piacere, sono Camilla, sono ricercatrice qui a Rizzoli. 5 più 5 è stato quello che ha, diciamo, partorito come legge il Ministero della Salute. Questo ancora nel 2019, siamo entrati dopo 10, 20 o anche 30 anni di precariato, in questo nuovo precariato, come dire, legalizzato, perché lo Stato prevedeva che noi facessimo altri 5 anni, alla fine di questi 5 avere una valutazione e vedere se darci altri 5 anni. E comunque non era spiegato cosa succedesse alla fine dei 10, cioè poteva essere che ritornavamo indietro, facevamo altri 5 più 5. Questo è stato secondo me una vergogna, sinceramente, perché ci ha dato sì dei diritti, perché fino ad allora avevamo delle borse di studio, dei contratti co-co-co che comunque erano stati anche giudicati illegali dall'Unione Europea, però diciamo che ha appunto reso ancora più impossibile un tipo di precariato appunto legale. 5 anni più 5 anni vuol dire insomma altri 10 anni, cioè chi di noi ha già più di 40 anni, chi ne ha 50, chi è prossimo alla pensione addirittura. Quindi non mi sembra questa insomma la soluzione che poteva essere in quel momento. Adesso chiediamo, visto che siamo arrivati alla fine del primo quinquennio, cosa ci propone anche il nuovo governo, quindi anche chiedo insomma sia a livello nazionale da parte del ministro Schillaci del nuovo governo, del sottosegretario Gemmato, ma anche a livello regionale, cioè il nostro governatore Bonaccini e l'amministratore l'assessore alla sanità Raffaele Donini, cosa pensano di fare? Noi sappiamo che adesso la regione potrà essere anche commissariata come tutte le regioni d'Italia per questa mancanza di bilancio dovuta anche alle spese che sono state fatte per il Covid e che non sono state diciamo rifinanziate dal governo, però nel momento in cui ci sia una nuova scelta sia a livello nazionale che a livello locale, cosa pensano di fare sia per la sanità tutta che in particolare per questo ruolo di ricercatori che noi ricopriamo da decenni e per i quali ancora nessuno ha messo veramente una parola fine, insomma. Questo è un precariato di Stato. Io come lavoratore, non sono, faccio lo speaker in radio, ma sono anche un lavoratore metalmeccanico, sono molto preoccupato. Chiaro che noi purtroppo come metalmeccanici spesso utilizziamo i rizzoli, perché adesso mi fa male un ginocchio, sono l'esempio in questo momento, ma mal di schiena da me in fabbrica purtroppo. E il fatto che questo Stato non finanzia sanità, ma non aiuti nemmeno la ricerca, perché voi chiaramente, molto probabilmente, molti di voi hanno già pensato di andare all'estero. Dopo tanti anni di ricerca, uno a un certo punto non ce la fa più, visto che qui non c'è la possibilità di stabilizzarsi. Un ricercatore del Rizzoli, dopo 10 anni che fa ricercatore, io immagino sia non appetibile, ma di più all'estero. E dunque, ancora di più, non si sta facendo nulla per fermare l'esodo, no? E io avrò sempre meno ricercatori e meno ricerca, per me significa più problemi di salute, in certo senso. Certo, infatti quello che sono questi istituti come Rizzoli, cioè IRCS, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, non sono solo ospedali, sono considerate eccellenze come l'Istituto Bellaria, sempre certo, la nostra regione, o a Reggio Emilia. Sono istituti che prevedono proprio nel loro organico avere una parte che si dedica alla ricerca, cioè la prima R dell'IRCS è ricerca, capito? A questo punto cioè, è chiaro che diversi lavoratori come noi che sono stati formati e sono cresciuti in questo istituto hanno fatto e stanno ancora facendo delle scelte di lasciare l'istituto e anche il paese. Questa, oltre che una situazione vergognosa, penso, per il paese e anche per i cittadini che devono usufruire del servizio sanitario, che a questo punto diventa sempre meno di eccellenza, perché quando la ricerca non è al servizio della sanità, la sanità sicuramente perde di efficacia. Certo. E a questo punto, cioè, è anche triste per noi che invece volevamo portare diciamo, la nostra conoscenza e quello che abbiamo appreso al servizio del nostro paese. Quindi sì, mi spiace anche per la categoria, ma soprattutto per i cittadini che non potranno neanche più avere questo servizio. Noi lo sappiamo. Ti ringrazio e spero che questo sciopero serva a qualcosa e la manifestazione del 6 maggio venga fuori anche la vostra problematica, che è una problematica di tipo generale. Certo, sicuramente, infatti saremo presenti anche in maniera unitaria con le altre sigle, CGL, CISL. Ciao, grazie Camilla. Grazie a te. Siamo qui con una fisioterapista del Rizzoli, che adesso chiediamo anche a loro, che sono importantissimi. Io sono un metalmeccanico, sono qua in veste non solo di giornalista radiofonico, ma sono un militante anch'io della FIOM e un lavoratore metalmeccanico, e a me sta molto a cuore, come tutti i lavoratori metalmeccanici, la sorte dei Rizzoli. Vedere l'ospedale che ci sostiene spesso sulle nostre problematiche di salute, entrare in sciopero per noi è uno shock. Che tu, che sei fisioterapista, che per noi sei l'angelo dei metalmeccanici in un certo senso, spiega perché siete in sciopero, raccontaci un po' le vostre ragioni. Ma noi siamo qui per sostenere un po' tutto il personale del comparto. Noi come dipendenti sanitari rischiamo di vivere una situazione davvero davvero difficile con questo blocco delle assunzioni e quindi la riduzione del personale. È una situazione frustrante sia come lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale, ma soprattutto come cittadini, perché riducono sempre di più i servizi del Servizio Sanitario Nazionale, mentre dall'altra parte l'unica cosa che non viene ridotta sono le tasse che tutti noi paghiamo. E infatti noi abbiamo degli stipendi che ormai sono ridicoli, sono sempre gli stessi, e non cambiano e ormai subiscono dei cambiamenti, quando cambiano, che non permettono nemmeno l'adeguamento all'inflazione. Siamo qui per difendere il Sistema Sanitario Nazionale e tutto, ma siamo qui anche per difendere il Rizzoli, che è stato classificato come il quinto ospedale ortopedico al mondo. E per difendere queste eccellenze c'è bisogno di medici sicuramente, ma c'è bisogno anche di fisioterapisti, di infermieri, di tecnici, di ricercatori, di amministrativi, di tutto il personale del comparto, che merita un trattamento ben diverso rispetto a quello che gli viene riservato oggi. Anche in altri fino a ieri ci hanno detto di stringere i denti, eravamo in emergenza, diciamo, e lo abbiamo fatto. Fino a ieri eravamo gli eroi, gli angeli del Covid, e adesso non serviamo più. Diciamo, certo, non vi sentite considerati, perché chiaramente vedete che i salari non aumentano. Questo vale per tutti i lavoratori, esatto. Però anche le vostre condizioni, no? Di lavoro. Sì, e prima ancora come cittadini, cioè noi siamo qui per scioperare anche proprio nelle vesti di cittadini, non solo come lavoratori, perché vorremmo difendere i servizi che invece vediamo che via via vengono ridotti. Come dipendenti pubblici, mentre una volta si diceva che i dipendenti statali fossero dei privilegiati, no? Adesso andiamo verso la direzione completamente opposta. Siamo noi stessi dipendenti che pian piano di questo passo dovremo licenziarci per andare verso il privato, ed è un peccato, certo. Proprio perché questo significherebbe acconsentire allo smantellamento del Sistema Sanitario Nazionale e alla distruzione di queste eccellenze. Siamo qui per dire che non ci piace, non vogliamo. Ti faccio un'ipotesi: oggi questo governo ha portato a tassazione delle partite IVA al 15%, tu come fisioterapista, se dovessi aprire una partita IVA avresti un guadagno molto più ampio di lavorare nel pubblico, ma questo non sarebbe corretto per noi. Esatto, appunto. Cioè, per noi sarebbe un aumento di costo, perché se vengo da te come in privato... c'è un divario tra i guadagni del pubblico e i guadagni del privato che è ingiustificabile. Ti ringrazio e speriamo che questa battaglia serva a far capire a questo governo e alla regione, anche a Bonaccini, che bisogna investire sul pubblico e non possiamo perdere questa eccellenza. Grazie a te. Ecco, siamo qui sempre a Rizzoli, davanti a Rizzoli c'è lo sciopero, stanno parlando lavoratori, delegati, funzionari del Rizzoli. Abbiamo con noi qui una lavoratrice, un'amministrativa che ci racconterà quello che, dal suo punto di vista, questo sciopero, quello che accade a lei come lavoratrice all'interno del Rizzoli. Sì, allora io sono qua a Rizzoli ormai da 10 anni, sono entrata diciamo con un concorso pubblico, quindi ho lavorato per 9 anni nel servizio farmacia, ed è un servizio molto molto lavorato, c'è stato sempre il personale sempre stato meno rispetto alle esigenze, e più passa il tempo più praticamente sta aumentando il lavoro. Io adesso lavoro al servizio acquisti della ricerca, e anche lì praticamente su 3 persone che sono andate in pensione ne sono state assunte una, quindi una, diciamo, una persona deve fare il lavoro di 3, quindi a livello, diciamo, degli amministrativi la situazione, diciamo, è molto molto insomma instabile e precaria, cioè nel senso che comunque gli amministrativi fanno anche, diciamo, delle ore in più e molto spesso quando vanno in pensione si ritrovano per esempio 200 ore in più che devono comunque smaltire, quindi vanno prima dai servizi un anno prima, cioè. E quindi praticamente il servizio rimane scoperto un anno prima perché non possono assumere un'altra persona, però quella persona comunque deve smaltire le ore che ha fatto in più. Questo è successo quando io lavoravo in farmacia, ma succede anche in altri servizi, perché praticamente le ore in più non vengono nemmeno pagate, quindi uno poi le accumula, perché comunque tu le accumuli, e poi dopo comunque le devi smaltire prima di andare in pensione. Insomma, questo è quello che succede a livello, insomma, amministrativo qua allo IOR, e la situazione è che hanno fatto adesso un concorso ultimamente da D, però non ha partecipato nessuno, quindi praticamente non sono riusciti a integrare nessuno a livello amministrativo, anche perché comunque diciamo che il personale di costa un po' di più all'amministrazione, quindi preferiscono sempre non assumere il personale da D. E anche per quanto riguarda, insomma, sarebbe da D? Da D sarebbe il personale praticamente da C, che è il C, che è il col diploma, invece da D è con la laurea, quindi è una posizione, diciamo, una posizione più alta, sì. E quindi lo stipendio è più alto e poi da lì passi verso la dirigenza, perché c'è nessuno si è presentato a questo concorso? A questo concorso si sono presentati pochissime persone e sono praticamente, diciamo, passati dall'esterno, ecco, perché c'era l'integrazione quella interna e anche lì praticamente dalla graduatoria sono state prese pochissime persone del passaggio di fascia da C a D, perché all'amministrazione non conviene, quindi hanno bloccato proprio la graduatoria, e da quella graduatoria non sono riusciti praticamente ad assumere nessuno qui allo IOR, erano soltanto, diciamo, 4 a livello proprio di tutte le aziende appartenenti, diciamo, all'azienda ospedaliera, insomma erano tutte praticamente c'erano questi 4 posti che li hanno dovuti dividere su tutte le aziende, quindi allo IOR praticamente non è arrivato nessuno, insomma, quindi stanno tuttora assumendo, cioè non stanno assumendo e stanno tipo prendendo personale con borse di studio o altro, quindi sempre a livello di precariato, insomma. Questa è una situazione molto brutta, perché poi alla fine i disservizi poi li pagano i cittadini, che carenza di personale, quando manca il personale poi noi abbiamo tutti i problemi che abbiamo tutti i giorni quando dobbiamo accedere al servizio pubblico sanitario. Certo, perché cioè, sembra che banale, perché vabbè, io lavoro, diciamo, in ambito amministrativo, sembra banale il lavoro di un amministrativo, ma è fondamentale il lavoro di un amministrativo, perché se manca, diciamo, il personale all'interno dei servizi, quei servizi cominciano praticamente ad andare indietro con il lavoro e quindi si accumulano praticamente lavoro sul lavoro. Io lavorando in farmacia, quando 3 anni fa, prima del Covid, noi a livello, diciamo, protesico avevamo tipo indietro 40-50 ordini, adesso hanno 600 ordini indietro, quindi è una situazione, diciamo, molto molto grave, cioè. E anche se hanno praticamente preso personale a tempo determinato dal precario, perché fanno dei contratti praticamente a livello precario esterni, con ditte esterne, queste persone naturalmente non possono poi, se non si fa un concorso all'interno, non possono comunque continuare con la loro attività, quindi sono anche, diciamo, tu vai a formare persone che poi queste persone tu un anno, 2 anni, 3 anni poi le perdi, cioè non possono essere integrate senza il concorso, quindi è questo, diciamo, il problema. Certo, mancano i fondi poi alla fine per questo. Sì, mancano i fondi per praticamente assumere nuovi, insomma, il nuovo personale, e poi non fanno il concorso, perché dovrebbero comunque adesso fare un nuovo concorso da C, in modo, insomma, da prendere le persone, diciamo, con amministrativi con il diploma, che insomma, di persone precarie, insomma, ce ne sono comunque. Beh, quindi speriamo che cambi qualcosa. Sto sciopero è l'inizio di una battaglia anche per questo, perché fondamentalmente voi chiedete, insomma, assunzioni e paghe adeguate all'inflazione e di discutere con l'azienda l'organizzazione del lavoro, fondamentalmente. Gli interventi che ho sentito è questo. Sì, sì, sì, assolutamente, anche perché c'è il nuovo contratto dove si dava praticamente il diciamo, si alzavano un pochino gli stipendi, ancora non è andato in corso, quindi certo. Ancora noi abbiamo sempre gli stessi stipendi, e, insomma, io ho sempre lo stesso stipendio di 9 anni fa, però il lavoro è sempre aumentato sempre di più, quindi, cioè, è quello, cioè lo squilibrio. Cioè. Noi siamo fiduciosi perché ci interessa, la sanità pubblica interessa tutti i cittadini, voi come lavoratori, ma come cittadini noi interessa tantissimo, e speriamo che finalmente si possa cambiare qualcosa, meno soldi per le armi, per avvantaggiare le partite IVA, abbiamo visto cosa è successo, e più soldi per la sanità, speriamo bene. Speriamo bene, grazie, ciao. Grazie, ciao. Insomma, avete sentito cose interessantissime. Avete capito anche, uno, che non ci sono soldi, e questo farà collassare la sanità a breve, e perderemo le eccellenze. Due, i lavoratori andranno via perché, come avete sentito, la lavoratrice, chi fa ricerca è ben visto fuori, invece in Italia non ci sono soldi per loro. Tre, la questione delle partite IVA, detassare al 15% le partite IVA farà sì che molti professionisti andranno via dalla sanità. Tre, c'è il problema delle problematiche di personale, e non pagano le ferie, le persone si trovano a fine carriera a farsi un anno di ferie, quell'anno lì non possono assumere perché non sono andati via, e chiaramente avremo sempre dei disservizi, è un continuo di servizi. Chi oggi deve prenotare una visita sa benissimo che non c'è mai posto, e stanno aiutando il privato e distruggendo il pubblico. Questo è in sintesi quello che ci stanno dicendo i lavoratori del Rizzoli. Io vi saluto e speriamo che altri scioperi negli ospedali e nella sanità vengano fuori, e il 6 maggio ci sarà la manifestazione, speriamo che venga fuori qualcosa di interessante e si combatta veramente per una sanità pubblica, perché ne abbiamo davvero bisogno. A presto. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.